GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Apriranno tra poco più di due ore anche in regione le urne per la tornata elettorale valida per le elezioni europee amministrative, rimarranno aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 23. A seguire lo spoglio delle schede, allestiti seggi e completati dagli scrutatori gli ultimi preparativi per il voto. La tragedia del Natisone a 8 giorni di distanza, sono riprese all'alba di oggi le ricerche di Christian, il terzo giovane che ancora non è stato ritrovato. Tra poco cominceranno in Romania i funerali delle due ragazze che hanno perso la vita travolte dalla Pina del Fiume. Un nuovo caso di febbre dengue è stato registrato a Trieste, stavolta nel rione di Chiarvola, il quinto contagio emerso in una decina di giorni. E ancora una volta riguarderebbe una persona di rientro da un viaggio all'estero che ora è ricoverata in ospedale. La disinfestazione del rione è prevista nella notte tra domenica e lunedì. Dal 20 maggio al 4 giugno sono stati effettuati 9 arresti dalla polizia di frontiera di Trieste nell'ambito dei controlli al confine con la Slovenia in seguito alla sospensione dell'accordo di Schengen e dei servizi mirati al contrasto dell'immigrazione irregolare. Oggi il centro di Trieste si è trasformato in un grande campo da golf con 18 buche in occasione dell'evento in City Golf, giunto alla seconda edizione, che vede impegnati giocatori da tutta Italia e dall'estero pronti a sfidarsi davanti al pubblico. Ma sono tanti gli eventi che affollano la città in questo weekend dal sapore ormai estivo. Dedicata al tema la terza età, tra bisogni di nuove cure e strategie per l'invecchiamento attivo, la mattinata di approfondimento e confronto e introduzione del conferimento dei premi di laurea della Fondazione Morpurgo Hoffman, che si è svolta a Udine, a Palazzo di Toppo Wasserman. Atletica leggera e campionati europei in corso a Roma. Questa sera la friulana Giada Carmassi sarà impegnata nella finale dei 100 metri ostacoli dopo aver ottenuto ieri il tempo di qualifica. Le 12:32 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beerz e Maria Spezia, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 8 giugno. Tra poco più di due ore, quindi alle 15, si apriranno anche nella nostra regione le urne per la tornata elettorale valida per le elezioni europee ed amministrative. Rimarranno aperte fino alle 23 e domani, domenica, dalle 7 alle 23. A seguire poi lo spoglio delle schede, cominciando con le europee. Intanto sono stati allestiti i seggi e completati gli ultimi preparativi con l'insediamento dei presidenti e degli scrutatori. Le urne per le europee e le comunali apriranno alle 15, resteranno aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Ma intanto negli uffici dell'anagrafe di tutti i comuni i dipendenti sono a disposizione degli elettori per il rilascio delle tessere elettorali in caso di smarrimento, deterioramento ed esaurimento delle stesse. All'ufficio elettorale del comune di Trieste già ieri le richieste hanno superato quota 1000. Marco Sicco, responsabile dell'ufficio. Vedere il trend dalla scorsa settimana, siamo passati da circa 300 scarse tessere elettorali fino a questa settimana, a ieri, a 1000, oltre 1200 tessere. Molti sono anche i giovani cittadini che ritirano la loro prima tessera elettorale per poter esercitare il loro diritto di voto. Sono Jacopo Mercuzza e sono qua per ritirare la mia prima tessera elettorale. E che effetto ti fa che potrai finalmente esprimere la tua opinione? Un po' di emozione, però sarà difficile la scelta. Guido, 18 anni, sei venuto a ritirare la tua prima tessera elettorale, sei felice? Sì, un cambiamento per la mia vita, è una cosa nuova, devo ancora scoprire un po' come funziona e sto pomeriggio andrò a votare per la prima volta. La consegna delle nuove tessere è questione di pochi minuti, anche grazie all'impiego di una macchina organizzativa rodata di 40 dipendenti comunali. In Largo Costanzi a Trieste, sotto l'ufficio elettorale, è stato allestito per la prima volta il seggio per gli studenti cosiddetti fuori sede che non risiedono in regione. Abbiamo allestito, come la norma prevede, un seggio ad hoc. È costituito da quasi 500 studenti che hanno fatto domanda a maggio per potersi appunto recare ad esprimere il voto qua a Trieste e, come potete vedere anche dalle urne, sono state rappresentate effettivamente tutte le circoscrizioni, quindi la prima, la terza, la quarta e la quinta, distinte dal proprio appunto colore. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Come detto, la tornata elettorale prevede quest'anno anche il voto per il rinnovo in Friuli Venezia Giulia di 114 amministrazioni comunali, 81 delle quali in provincia di Udine, 16 in quella di Pordenone, 14 in quella di Gorizia e 3 in quella di Trieste. Nessun comune sopra i 15.000 abitanti, quindi in ogni caso nessun ballottaggio. Sono in 225 a correre per la carica di sindaco in ben 20 28 comuni c'è un solo candidato alla carica di primo cittadino a cui basterà raggiungere il quorum del 40% degli aventi diritto al voto per essere eletto. Tra i comuni più grandi c'è quello di Pasean di Prato. Una prima volta elettorale per le comunali. Si vota di sabato con le scuole, sedi di seggio chiuse in anticipo rispetto alla data dell'8 giugno. Succede in 114 comuni del Friuli Venezia Giulia, 84 in provincia di Udine, 3 in provincia di Trieste, 14 in provincia di Pordenone e 12 in quella di Gorizia. In tutto 292.577 elettori, di cui 144.391 uomini e 148.186 donne. Nella provincia di Udine 202.307, Pordenone 50.739, Gorizia 15.526, Trieste 7.769. Già aperti gli uffici elettorali per poter ritirare la tessera che permette di votare per chi non l'avesse o l'avesse smarrita. Tra le 84 amministrazioni municipali da rinnovare in provincia di Udine c'è Pasean di Prato, dove anche qui presidenti e componenti del seggio sono al lavoro da questa mattina per essere pronti dalle 15 ad accogliere gli elettori. Massimo Lavarone, presidente di seggio. Da quanto tempo fa il presidente di seggio? Non è la prima volta per lei? No, ho un'esperienza pluridecennale. Parliamo di più di 30 anni fa ormai. Siete pronti? Siamo prontissimi, nonostante il clima che ci fa sudare, però siamo prontissimi. Ultime indicazioni dei presidenti ai componenti del seggio prima delle aperture delle varie sezioni. 224 i candidati alla carica di sindaco. L'età media complessiva di candidati e candidate a sindaco è 56 anni. In 64 casi la sfida è tra due candidati, in 20 comuni ci sono tre candidati e in due comuni la sfida è tra quattro contendenti. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento. La cronaca, a 8 giorni di distanza dalla tragedia sul Natisone, sono riprese all'alba di oggi le ricerche di Christian, il terzo giovane che ancora non è stato ritrovato. E tra pochi minuti intanto cominceranno in Romania i funerali delle due ragazze che hanno perso la vita travolte dalla piena del fiume. Bianca, Patrizia e Christian potevano essere salvati. A dirlo l'avvocato Gaetano Laghi è arrivato da Milano per assistere Petru Radu Molnar, fratello del 25enne che ancora manca all'appello. Il legale ringrazia a nome della famiglia per gli sforzi profusi dalle autorità nelle ricerche di Christian, ma ci tiene a sottolineare. Dalle prime verifiche che ho potuto fare, appare assolutamente evidente che se i soccorsi fossero partiti tempestivamente, ovvero nel momento in cui la povera ragazza li ha richiesti, oggi i ragazzi sarebbero a casa con i loro genitori. E questa è un'evidenza che credo nei prossimi giorni sarà resa nota almeno agli inquirenti e conseguentemente bisognerà valutare il grado delle omissioni, perché il procuratore dice che si parla di omissioni e su questo siamo d'accordo, ma purtroppo è un'omissione, un ritardo che ha inciso sul soccorso. L'indagine degli inquirenti è in corso, il fascicolo aperto contro ignoti al momento e i vigili del fuoco non commentano le dichiarazioni dell'avvocato. Rendono tuttavia noto che non c'è alcuna previsione di sospendere le ricerche da domenica. Si intende invece andare avanti con il dispositivo di questi giorni: elicottero, droni, sommozzatori, personale spelo alpino fluviale. Ieri l'appello del fratello di Christian a non fermarsi finché anche il 25enne sarà riportato alla famiglia. E così a Premariacco per il 9° giorno proseguono le ricerche, impegnati una quarantina di vigili del fuoco anche oggi e 20 volontari a piedi della protezione civile, come da richiesta dei pompieri. Intanto, a 1.000 chilometri esatti da Premariacco, proprio in questi minuti sono in corso i funerali di Bianca e Patrizia in Romania. Premariacco, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca ancora, incidente con esito mortale ieri sera a San Leonardo Valcellina, a perdere la vita un 55enne Gualtiero Belgrado che si è scontrato contro un'auto mentre guidava la sua moto sulla strada regionale 251. Per cause ancora da chiarire, l'uomo è stato sbalzato dall'urto in un prato dove è deceduto per i gravi traumi riportati. Sul posto la Sores ha inviato un'auto medica e un mezzo di soccorso avanzato. La conducente dell'autovettura è stata dimessa dopo gli accertamenti all'ospedale di Pordenone. E un nuovo caso di febbre dengue è stato registrato a Trieste, stavolta nel rione di Chiarvola. È il quinto contagio emerso in una decina di giorni. Ancora una volta riguarderebbe una persona di rientro da un viaggio all'estero che ora è ricoverata, tra l'altro, in ospedale. Scattate le contromisure, il Comune di Trieste infatti informa che nella notte tra domenica 9 giugno e lunedì 10 giugno a partire dalle 4 di mattina, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, che sono previste tra l'altro in peggioramento, nella zona in prossimità di Vicolo della Salvia e Via Salvi per un raggio di 200 metri si svolgeranno misure preventive di disinfestazione radicale a seguito dell'accertamento appunto da parte dell'azienda sanitaria universitaria Giuliani Sontina di un caso accertato di dengue. Tutti i residenti, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano disponibilità di spazi all'aperto nell'area coinvolta sono invitati a seguire le indicazioni che verranno date tramite appositi cartelli nell'area interessata fino al termine delle operazioni. Queste le vie coinvolte: via Isola d'Istria, via Lusso in Piccolo, via Pisino, via Orsera, via Capodistria, via Norma Cossetto, via Pirano, via Umago, via Cittanova d'Istria, via Baiamonti, via di Silvula, via della Salvia, via Ercolano Salvi, via Pinguente, via del Ronchetto, via Paolo Giacometti, via Claudio Pulcro. Dal 20 maggio al 4 giugno sono stati effettuati 9 arresti dalla Polizia di Frontiera di Trieste nell'ambito dei controlli al confine con la Slovenia in seguito alla sospensione dell'accordo di Schengen e dei servizi mirati al contrasto dell'immigrazione irregolare. Tra questi quello di una cittadina serba di 31 anni con diversi precedenti penali avvenuto al valico di Pese su un autobus di linea partito da Zagabria diretto a Napoli. La donna, ora in carcere, deve scontare un cumulo di pene di 23 anni, 10 mesi e 15 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Al valico di San Servolo un altro episodio ha riguardato un cittadino romeno di 27 anni arrivato dalla Slovenia alla guida di un'auto con 5 migranti irregolari di nazionalità turca, una donna e 3 uomini tra i 15 e i 24 anni e un bambino di 3 anni. Con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, l'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Via del Coroneo. E altri 2 passeri, entrambi di nazionalità romena, sono stati bloccati al valico di Fernetti, il primo di 36 anni, il secondo di 29. Ciascuno stava accompagnando in Italia 4 migranti irregolari, tutti maggiorenni, tranne uno che è stato pertanto affidato a un'idonea struttura di accoglienza. I 2 si trovano ora nel carcere triestino a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre le loro autovetture sono state poste sotto sequestro. Oggi il centro di Trieste si è trasformato in un grande campo da golf con 18 buche in occasione dell'evento In City Golf, giunto alla seconda edizione, che vede impegnati giocatori provenienti da Italia e dall'estero pronti a sfidarsi davanti al pubblico. Ma sono tanti gli eventi che affollano la città in questo weekend dal sapore ormai estivo. La città piena come ormai ogni weekend a Trieste, giorno di turismo di alto livello grazie anche a iniziative collaterali come ad esempio il golf in strada. La città è diventata un campo a 18 buche per l'evento In City Golf alla seconda edizione, la prima senza bora. Ha portato in città 78 giocatori da Italia, Austria, Slovenia e Germania. Buche in Piazza Unità, Ponte Rosso, Cavana e anche all'Arco di Riccardo, con palline morbide adatte alla tipologia di gioco cittadino. I turisti di ogni età sono arrivati in città per un weekend che sarà ricco di altri eventi, a partire dal concerto di Max Pezzali, che domani vedrà il tutto esaurito con oltre 25.000 biglietti venduti, molto più della metà da fuori regione. Il cantante nel pomeriggio di oggi si esibirà in giro per la città con una banda a partire dalle ore 17 con partenza da Piazza Venezia per creare ancora più attesa per il concerto di domani sera. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 12.43 minuti e 30 secondi diamo uno sguardo al tempo. Il cielo da nuvoloso a variabile su tutta la regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste 24 gradi e 5 decimi, il mare calmo con temperatura di 24 gradi. A Gorizia 27 gradi e mezzo, a Udine 26 gradi e 5 decimi, a Pordenone 24 gradi e mezzo. A Tolmezzo 23 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra e Tarvisio 21 gradi, a Piancavallo 16 gradi e mezzo. Sul Monte Zoncolan 14 gradi, a Lignano 25, a grado 24, la temperatura del mare in queste 2 località è di 24 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per questo pomeriggio: cielo in genere variabile su tutte le zone, saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili sulla alta pianura e sulla zona montana, e localmente qualche temporale potrebbe anche essere forte, venti a regime di brezza. Per domani sulla zona montana cielo in prevalenza nuvoloso, sulle altre zone variabili. Dal pomeriggio saranno possibili i rovesci e temporali sparsi, inizialmente più probabili sulla zona montana e sull'alta pianura. Sulla costa soffierà in giornata vento da sud o sud-est moderato. Portare un pezzo dell'Accademia di Belle Arti di Venezia a Gorizia, coinvolgendo gli artisti locali in vista di Go 2025. L'idea dell'associazione culturale Qui Altrove. L'arte contemporanea diventa motore di sviluppo per Borgo Castello a Gorizia. È l'idea che muove l'associazione culturale Qui Altrove, che dopo aver inaugurato un nuovo spazio nella ex drogheria di Via Rastello con la mostra Duetto, che affianca un artista affermato Serse Roma e un emergente Eric Gerini, avvia una collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Stefano Marotta, vicepresidente Accademia di Belle Arti di Venezia. L'idea è quella di costruire un laboratorio, quindi portare un pezzo di Accademia qui a Gorizia, coinvolgere artisti locali e altri esponenti comunque dell'ambito culturale per un laboratorio che abbia la finalità in qualche modo di riattivare le energie che attraverso l'arte in qualche modo è possibile fare. Sì. Inserito nel Bando Borghi, il progetto prevede la realizzazione di 3 percorsi di alta formazione incentrati sui temi dell'arte per la città, l'arte per il pianeta e l'arte per il sociale, in vista di Go 2025 ma anche oltre. Fabio Bonetta, vicepresidente Qui Altrove. Abbiamo in animo di dare un senso duraturo alle nostre proposte. Vorremmo poi nel corso dei prossimi mesi sviluppare ulteriori mostre legate a questa logica del rapporto intergenerazionale artistico con l'artista Manuela Sedmak e poi vorremmo realizzare proprio per l'8 febbraio una mostra dell'artista Loris Cecchini. Sta studiando una proposta da realizzare che non anticipo niente, ma sarà molto significativa rispetto a quelle che sono le normali produzioni artistiche che vediamo in questo territorio. Gorizia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata dedicata al tema La terza età, tra bisogni di nuove cure e di strategie per l'invecchiamento attivo, la mattinata di approfondimento e confronto a introduzione del conferimento dei premi di laurea della Fondazione Morpurgo Hoffmann. L'evento si è svolto a Udine, a Palazzo di Toppo Wasserman, e ha incluso l'intervento L'invecchiamento cerebrale è un processo inevitabile, gli studi sui centenari, che è stato condotto dalla docente di neurologia dell'Università di Udine, Gabriella Marcon. Le abbiamo chiesto una sintesi nella nostra intervista. Gli studi sono ancora pochi proprio perché i centenari non sono numerosi, quindi gli studi sono pochi in Italia e pochi anche a livello internazionale. Quello che noi stiamo vedendo è che molti centenari non vanno incontro a deterioramento cognitivo e questo è importante. Circa il 40% dei centenari non soffre di demenza. E questo è un dato che ci fa ben sperare, perché noi in questo modo possiamo cercare quali sono i fattori che preservano i centenari dall'indementire, diciamo, rende speranza anche per le popolazioni più giovani. Quali in particolare secondo voi può essere uno dei minimi con un denominatore di tutti questi centenari che, beati loro, nonostante l'età, non hanno problema di invecchiamento cerebrale? Ma noi quello che stiamo vedendo è un fattore molto singolare, che più una persona invecchia più diventa un individuo, quindi ci sono dei fattori comuni che però diventano sempre più personali man mano che invecchiamo. Sicuramente la genetica, lo stile di vita, quindi l'alimentazione, l'attività fisica, gli interessi poi culturali anche e sociali, le interazioni sociali sono molto importanti. Ciascuno di noi vive in equilibrio con questi fattori, quindi se propendono i fattori favorenti possiamo sperare di preservare il nostro cervello da disturbo cognitivo. Ovviamente ci vuole sempre anche la fortuna di invecchiare e la genetica comunque aiuta, ma noi possiamo aiutare la genetica comunque con uno stile di vita adeguato e anche con fattori ambientali che possono migliorare la nostra qualità della vita, ad esempio, e il nostro ruolo all'interno della società. Siamo allo sport con l'atletica leggera e i campionati europei in corso a Roma. Oggi la friulana Giada Carmassi sarà impegnata nella finale dei 100 metri ostacoli dopo aver ottenuto ieri il tempo di qualifica con il tempo di 13 secondi e 13 decimi. La gara è in programma alle 22.08. Nulla da fare invece per la corregionale Sinta Jeuvissa, eliminata nella semifinale degli 800 metri. Prosegue la 91esima edizione della Fiera regionale dei vini di Butrio, che oggi in calendario prevede diverse attività e laboratori per i bambini, oltre a visite guidate a Villa Dragoni e Villa di Toppo Florio. Alle 18 è previsto incontro in vigna, passeggiata per scoprire le storie delle famiglie di Toppo e Florio in compagnia di Antonietta Wasserman di Toppo, con degustazione di vino tra le vigne. In occasione del centenario della vittoria di Ottavio Bottecchi al Tour de France del 1924, il comune di Pordenone ha predisposto un progetto celebrativo dedicato. Oggi in calendario la 100 volte Bottecchi a Gravel, gara con partenza alla francese su 2 giorni. Inoltre a Palazzo Gregoris, in abbinata alla mostra 100 volte Bottecchi, si tengono visite guidate nel pomeriggio a Cinema Zero, e in programma Ottavio Bottecchi è un campione, una leggenda, conferenza degli storici Claudio Gregori e Gino Cervi sulla storia del campione nelle terre in cui è vissuto. A seguire la proiezione del docufilm del giornalista Rai Franco Bortuzzo, Ottavio Bottecchi è il Furlan de Fero. Nel corso del pomeriggio, in occasione della manifestazione ciclistica non competitiva pedalata in giallo, è prevista la sospensione momentanea della circolazione dalle 15 lungo il percorso di Piazza 20 Settembre e a seguire su Via Cavallotti, Piazza Duca d'Aosta, Via Colonna, Via Parco San Valentino e oltre, per raggiungere le 18 circa il velodromo Bottecchia, dove terminerà la manifestazione. Il Festival Le Giornate della Luce, dedicato ai maestri della fotografia del cinema, prevede la consegna del premio Quarzo di Spilimbergo alla migliore fotografia. Presidente della giuria è l'attrice Monica Guerritore. La terna finalista è composta da Davide Leone per C'è ancora domani di Paola Cortellesi, Francesco Di Giacomo per Rapito di Marco Bellocchio e Lorenzo Casadio Vannucci per Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Sant'Ambrogio. A Spilimbergo, al cinema Miotto, alle 21. Anche quest'anno il festival renderà omaggio al ricordo della giovane Michela Baldo, vittima di femminicidio nel giugno del 2016. La serata sarà chiusa dalla proiezione di La ruota delle meraviglie di Woody Allen, di cui è autore della fotografia Vittorio Storaro, vincitore del Quarzo d'Oro alla carriera. Il programma della giornata prevede la masterclass di Lorenzo Casadio Vannucci alle 15. L'11ª edizione della Notte dei Lettori, festival dedicato ai libri e ai loro protagonisti, quest'anno declinato sul tema di viaggi, erranze, partenze e ritorni, prosegue con il convegno Intelligenza Artificiale. Ne parliamo tanto, la conosciamo poco. A Udine, a Palazzo d'Aronco, l'incontro a seguire sui percorsi poetici mandati a dire all'imperatore con Gianmario Villalta. Nel pomeriggio alle 17, Balcani, storia e sentimento con Angelo Floramo alle 20. In cartellone anche la visita guidata di Elena Commessate a Casa Cavazzini alle 16.30 con le novità della struttura come sala zigaina e le recenti acquisizioni. Ancora in cartellone Kiev, Udine, solo andata e l'incontro con Maria Elena Porzio, autrice del libro La data giusta, con il giovane ucraino protagonista della storia raccontata nel volume, in corte Morpurgo alle 18. Infine l'editore Roberto Keller incontrerà i lettori in Viaggio tra i filari di viti, letteratura e culture, Keller, racconta Keller, alla Libreria Moderna Udinese. Alle 18.30. Domani su queste frequenze alle 8.50 andrà in onda la rubrica Vita nei campi. Sentiamo allora gli argomenti. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani è in apertura il Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, che punta su innovazione e sostenibilità ambientale per mantenere la competitività del settore. A seguire i percorsi d'acqua dei mulini del Friuli raccontati da Angelo Floramo, ad Avons di Verzegnis, la collezione di alberi da frutto autoctoni, testimoni di una selezione centenaria, e ancora nella rubrica del sommelier le birre inglesi prodotte con lieviti ad alta fermentazione, la dissetante limonata, fresca e tonificante bevanda regina dell'estate, nell'angolo dedicato ai fiori, la falsa erica. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti di oggi. Lions Club Gorizia Aosta, organizzato per oggi all'aeroporto di Gorizia, un service dal titolo Fly Therapy per far provare l'ebbrezza del volo a ragazzi con disabilità fisiche o psichiche a bordo di biposti o quadriposti guidati da piloti esperti e formati anche nella gestione della disabilità, fino alle 16. La mostra 30 anni di dedica Festival Libri, Idee, Immagini ed Emozioni, che sintetizza 3 decenni della rassegna culturale pordenonese, sarà inaugurata a Pordenone alla Galleria Harry Bertoia alle 17. Lorenzo Fabiano presenterà il suo libro 10 ferite, dedicato a campioni dello sport d'altri tempi, a Trieste, alla Libreria Lovat alle 18. La mostra Storie di Montagna, Palazzo Coronini di Julius Cughi e Donne in Quota sarà accessibile da oggi fino al 6 gennaio a Gorizia, a Palazzo Coronini, con orario del fine settimana dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'evento ludico motorio della Marcia del Cuore, che prevede due percorsi da 9 e 14 chilometri, avrà come ritrovo il retro della Chiesa del Sacro Cuore di Udine dalle 16.30 e partenza alle 18. Spettacoli, il nuovo monologo comico di Stefano Dongetti intitolato Obsoleto, di scena Trieste al Museo Sartorio alle 21. La Casa del Cinema di Trieste riapre l'arena estiva del Giardino Pubblico inaugurando la proiezione di film all'aperto in calendario fino a settembre con la proiezione di Buena Vista Social Club di Wim Wenders alle 21. Zodiaco, nuovo spettacolo itinerante della compagnia Anatema Teatro, sarà rappresentato a Martignacco a Città Fiera alle 17. Il calendario della 12ª edizione della rievocazione storica longobarda Romance Langobardorum prevede la proiezione del documentario Langobardi, Grimoaldo, il primo re friulano, a Romance di Sonzo presso i Laghi Fipsas alle 21.30. La 5ª edizione del Festival Nazionale di Musica Classica Musica con Vista proporrà il concerto del quartetto Goldberg con musiche di Verdi e Ravel a Trieste al Castello di Miramare alle 20.45. John Rutter, celeberrimo compositore inglese, dirigerà centinaia di goristi provenienti da Friuli Venezia Giulia e Slovenia a Gorizia in Piazza della Vittoria alle 19.30. Il Festival Internazionale di Musica e Territori Nei Suoni dei Luoghi proporrà oggi l'evento di musica e danza verticale Skyline a Udine al Colle del Castello alle 22.30. La rassegna di musica da camera Concerti al Castello propone oggi il concerto del duo portolese argentino in musiche di Chrysler, De Sarasate e Piazzolla a Gorizia a Palazzo Lantieri alle 18. La rassegna bandistica Bande in Piazza prosegue con l'esibizione della Società Filarmonica di Turriaco diretta da Fulvio Dose a Rivignano in Piazza Tarabane alle 21. Chiudiamo ricordando che oggi e domani si vota in Friuli Venezia Giulia, oltre che per le europee, anche per rinnovare 114 amministrazioni comunali. Urne aperte oggi sabato dalle 15 alle 23 e domani domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Sentiamo allora le istruzioni per esercitare correttamente il diritto di voto. Sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23 si vota per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla, anche nei giorni della votazione, all'ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. L'elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta, anche non indicando alcun candidato. Si può votare per una sola lista. Sulle righe stampate a fianco del simbolo si possono esprimere fino a un massimo di 3 preferenze, una sola per le liste delle minoranze linguistiche, indicando il cognome oppure il nome e il cognome in caso di omonimia dei candidati scelti, che dovranno appartenere alla lista votata. Se si sceglie di esprimere 2 o 3 preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso per non annullare la seconda e la terza preferenza. Nelle stesse giornate di sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e di domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23 si vota anche per rinnovare il presidente e il consiglio regionale del Piemonte e oltre 3.700 amministrazioni comunali. Maggiori informazioni sono disponibili su interno.gov.it, esteri.it, rai.it e sulle pagine di Televideo. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beartz, con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida, collaborata in redazione Cristina Polselli. Grazie dell'attenzione, appuntamento con il prossimo GR alle 14.30. A tutti l'augurio di un buon sabato e buon voto. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.